Sì, sono parole di vignaioli queste, cioè ci tengo a sottolinearlo perché in genere appunto ci si sofferma molto sulle caratteristiche del vino o semplicemente sull'espressione di un vino, no? Però in realtà un vino esprime anche sempre una filosofia di fondo. Paola, dice Gilles Clément, e ti riguarda particolarmente, un meleto redditizio è composto solo di meli e di nient'altro. La superficie del suolo, ripulita da ogni possibile concorrente, non lascia vedere altro che una terra battuta, viscida e quasi morta. I tuoi meleti io li ho visti. No, proprio. Perché sono... ci tengo a dire che Terra d'Arcoiris è un'azienda un po' a tutto tondo, nel senso che raccontala tu, Paola. Noi abbiamo 40 ettari, tutti diversificati. Abbiamo... 3 ettari di frutteto, 5 di vigneto, 3 di oliveto, cereali, legumi, bosco e anche un agriturismo che, mi dispiace dirlo, ma meno funziona, più sono contenta perché non mi piace fare l'ospitalità, è un mio limite. Ma c'hai da fare anche dell'altro, insomma. Sì, insomma. Questa diversificazione ci permette di avere un bilancio aziendale complessivo, quindi nessuno dei nostri prodotti, per esempio, ha un prezzo reale di produzione o speculativo in nessun modo. Il fatto di avere un tipo di conduzione con il minimo impatto significa anche la limitazione del lavoro, come dicevi te, cioè tentare di fare il meno possibile sia per quanto riguarda l'amore della terra ma anche l'amore di se stessi, cioè non stare sul trattore dalla mattina alla sera a tenere tutto pulito perché non ce n'è proprio bisogno. Quindi nel frutteto c'è l'erba alta come dappertutto. Conservare la diversità al suo posto, alimentarla, aumentarla, utilizzare l'energia propria di ciascuna specie, non dissipare inutilmente energie contrarie e alla fine constatare ciò che ripeto ogni volta che occorre, fare il più possibile con e il meno possibile contro.